È martedì 16 luglio, intanto i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore, la notizia da cui poi vorrò iniziare è una di quelle notizie che ci fanno tirar sul morale. Regioni, un prelievo da 138 miliardi. L'inchiesta del Sole 24 Ore che ha ricostruito gli incrementi del gettito a livello territoriale da quando ci sono le regioni, dal 70 a oggi, la pressione fiscale delle autonomie è aumentata di 30 volte. Poi dicono che bisogna cancellare le province. Il Corriere della Sera, vertici della polizia in bilico e l'apertura sulla vicenda kazaka, Repubblica, bufera su Alfano, PDL in trincea. Il Fatto Quotidiano, il PD ingoia anche Alfano, Renzi, così Letta non dura. Per il Giornale addirittura c'è un piano per far cadere Letta. Alta tensione nel governo è anche il titolo del Messaggero. La Stampa, Viminale, ultimatum PD a Letta. E il Secolo XIX, Renzi con il PDL non dura. Vedete che ci sono tuoni e fulmini, insomma, sulla tenuta del governo Letta. L'apertura di Libero invece è nuovi mutui, ecco i migliori. Mentre Calderoli lasci, è indifendibile, questo è il titolo d'apertura dell'Unità. Io però voglio partire da che cosa? Da questa inchiesta del Sole 24 Ore che mette dei dati, dei numeri davvero impietosi e inquietanti con cui dobbiamo fare i conti. Il fisco regionale è salito di 30 volte da quando ci sono le regioni. Tutti i dettagli con Gianni Trovati a pagina 3. 30 volte in 40 anni, in questa dinamica esponenziale vissuta dal peso del fisco territoriale sulla ricchezza del paese, uno dei colpi più duri assestati dai bilanci pubblici ai conti di imprese e famiglie. Una corsa per di più che è cresciuta di ritmo proprio negli ultimi anni, quelli del federalismo all'italiana. In teoria la pressione del fisco regionale si attesta, secondo i dati più recenti, poco sopra il 5% del PIL. Nel conto però occorre far rientrare anche la compartecipazione IVA, un'imposta che ha targa statale ma che per oltre la metà serve a finanziare la spesa sanitaria regionale. Nel 2000, quando il meccanismo è nato, finiva alle regioni il 27,5% del gettito, mentre l'ultima ripartizione relativa al 2008 ne dirotta sul territorio il 52,89%. Di fatto, aggiungendo la compartecipazione IVA alle entrate regionali proprie, si arriva a 138 miliardi di aumento di tasse regionali e una percentuale del 9% del PIL. Pensate che nel 1970 era appena lo 0,3% del PIL. E all'aumento registrato in 40 anni non corrisponde un calo dei tributi statali. Questa è la cosa, è la doppia tenaglia, cioè aumentano le entrate, le tasse locali e non diminuiscono quelle statali. Quindi il risultato del federalismo è un federalismo de noantri. Più tasse, decentramento vuol dire più tasse locali e uguali tasse, anzi aumentate, statali. Ancora sul Sole, a pagina 3, l'esplosione del fisco locale non accompagnata da un dimagrimento almeno equivalente del fisco nazionale è il primo frutto avvelenato lasciato in eredità ai bilanci di famiglie e imprese dal federalismo incompiuto all'italiana. E a peggiorare il quadro intervengono le prospettive che puntano su nuovi aumenti. L'ultima regola nel campo travagliato della fiscalità locale, freschissima, è arrivata nel decreto IVA lavoro approvato dal governo Letta, ha fatto spuntare tra i commi la possibilità per le regioni autonome di aumentare di un punto l'addizionale IRPEF dall'anno prossimo. Avete capito voi che abitate nelle regioni autonome la possibilità di aumentare l'addizionale IRPEF dall'anno prossimo di un punto? Questo nell'ultimo provvedimento governo Letta. La stessa chance, lontano dai territori a statuto speciale, è stata offerta al decreto sulla revisione di spesa del luglio 2012 alle regioni impegnate nei piani di rientro dall'extra deficit sanitario, col risultato che dal 2014 l'IRPEF dei governatori potrebbe arrivare al 3,33% e se scattano le super addizionali al 3,63%, questo in 11 regioni e 2 province, autonome. Avete voluto il federalismo fatto così, cioè fatto male. Questi sono i risultati. Il titolo a pagina 2 con l'articolo di Davide Colombo, sempre sul Sole 24 Ore, il federalismo quadruplica le tasse locali. Per la Confcommercio l'aumento di spese, tagli e trasferimenti trainano le entrate più 500% in 20 anni. Questi i risultati dell'inchiesta del Sole 24 Ore sugli incrementi di gettito a livello territoriale. C'è da dire che anche Franco Bechis su Libero a pagina 3 si dedica a questo tema, federalismo flop, boom di tasse regionali, scrive il vice direttore di Libero. Il federalismo fiscale era una bellissima idea, paghi le tasse a casa tua e vedi subito come sono utilizzate, meglio che pagare lo Stato centrale e poi perdere le tracce in milioni di rivoli di spesa. Così negli ultimi 20 anni, man mano lo Stato ha ceduto competenze relative ai poteri impositivi a regioni, province e comuni, solo che non ha reso più efficiente la spesa pubblica e più digeribili le tasse. Dunque il federalismo si è trasformato in un vero e proprio macello. Anche questo è il punto di partenza di Libero. Ci sono tanti dati, ci sono tanti anche grafici sull'andamento dell'imposizione fiscale. Insomma, il risultato l'avete capito: decentramento di possibilità degli enti locali di imporre tasse. Le tasse le hanno imposte. Dall'altra parte la spesa pubblica è aumentata e le tasse sono aumentate anche a livello centrale. Risultato: tutti hanno aumentato le tasse, a chi tocca pagare, ovviamente a noi. Allora, l'altra notizia sulla quale vi voglio stimolare prima della pubblicità è la decisione della Presidente della Camera, Laura Boldrini, di puntare il dito contro la TV, o meglio contro l'immagine che della donna viene data dalla TV. E uno dei punti sui quali la Presidente della Camera Boldrini ha voluto puntare il dito è stato su Miss Italia. Miss Italia, che non verrà più trasmessa dalla RAI. Bene lo stop della RAI, così titola a pagina 12 il Messaggero, è il pensiero di Laura Boldrini, fondatrice dell'evento. Patrizia Mirigliani dice: in 74 anni abbiamo fatto tanto per le donne. C'è anche un'intervista a Milly Carlucci, è un programma storico. Ci sono alcune donne come Martina Colombari, che ha partecipato a Miss Italia e ha vinto a 16 anni. Devo tutta la mia carriera a Miss Italia, un concorso serissimo. Quando ho partecipato 20 anni fa era uno dei pochi modi per entrare nel mondo dello spettacolo. Non mi sono mai sentita la ciliegina sulla torta, ero e sono una bella ragazza, ma non sono mai caduta in strani tranelli. Insomma, questa è l'immagine della donna. Ieri Laura Boldrini anche ha detto: in TV le donne sono mute o svestite, il 2% di loro parla. E ancora, per esempio, il Corriere della Sera dedica una pagina a questa, pagina 17, dice Laura Boldrini: i tempi sono maturi per una legge contro gli stereotipi sessisti. In altri paesi non si usano donne seminude per vendere yogurt e valigie. Non vedi lo spot con la famiglia seduta a tavola e la mamma che serve? Ah, anche questo, no? Un'immagine della famiglia stereotipata, dice Laura Boldrini. E poi, per promuovere la vendita di una macchinetta per il caffè, non si ricorre allo slogan "te la diamo gratis", questo all'estero. Insomma, sono a questi motivi che hanno spinto anche due proposte di legge già presentate. Laura Boldrini conta su un Parlamento che, più giovane e con più donne, possa mettere il tema in agenda. E poi parla di Miss Italia, parla anche dell'Isola dei Famosi. Basta l'annullamento di questo programma in RAI, una cosa positiva per Laura Boldrini, per puntare alla qualità, non sul sensazionalismo, sulla TV del dolore. Insomma, pone l'accento sull'immagine delle donne che fuoriesce dal piccolo schermo. Boldrini: RAI senza Miss Italia è una scelta di civiltà. Anche Repubblica, e su questo tema dedica una pagina alla Presidente della Camera: le donne in TV sono mute o nude? Solo il 2% di loro parla. Solo Libero si scaglia molto su questa iniziativa di Laura Boldrini. Per la verità è da qualche giorno che Libero ha anche titolato qualche giorno fa "Il PD vieta la gnocca". Questo è il titolo di prima pagina sulle proposte di legge che sono state depositate al Senato in materia. Stendete un velo sulla Boldrini prima che lei lo imponga a noi. Ius Soli, gay, casa ai rom, ora perfino l'elogio della RAI che oscura Miss Italia. Mai visto un presidente della Camera più fazioso. Letta intervenga, questo è l'appello di Libero, dicendo: Laura Boldrini è per la censura e vuole tutte le donne in burca. Vabbè, Il tema in realtà è anche un tema culturale serio, se volete. Intanto noi andiamo alla pubblicità e al meteo e poi ripartiamo da che cosa? Beh, i due casi che tengono banco sulla politica. Uno è sempre il caso Calderoli-Chieng, ma l'altro è il caso Kazako, come è stato definito. Perché sul caso Kazako, cari ascoltatori, tutti gli analisti sono concordi a dire che il governo davvero rischia. Tra poco. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Allora, alle 7:31 minuti, cari ascoltatori, sono due le notizie che ancora campeggiano, sono due fatti di cronaca che però hanno avuto e stanno avendo dei riflessi politici non indifferenti. Uno dei due, addirittura la vicenda kazaka, rischia di far cadere il governo? È un interrogativo che pongo, ma lo pongono anche molti giornali. Partirei però dalla vicenda Calderoli-Chieng perché è il secondo giorno che molti giornali non si occupano di altro, comunque la mettono come notizia più rilevante. Noi ne parleremo alle 8:30 anche a capire se davvero sia la notizia rilevante. È chiaro che i problemi dell'Italia sono altri, questo è abbastanza ovvio e scontato, però non è che una frase del genere detta da un uomo delle istituzioni possa in qualche modo essere scacciata via dicendo ma sì, i problemi sono altri. Bisogna capire se effettivamente non si stia esagerando nel mettere questa notizia così in risalto o se invece sia doverosa questa denuncia. Sta di fatto che sui giornali troverete ancora questa notizia in ampio risalto per molti quotidiani e anche l'apertura. Chieng, lo scontro aperto Letta-Lega, anche perché ieri c'è stato appunto un crescendo con Letta che addirittura ha chiamato in causa Maroni, presidente della Lombardia, e non solo, ha chiamato in causa l'Expo, dicendo in vista dell'Expo lavoriamo insieme, e Maroni ha detto e ha risposto, ha chiesto scusa Calderoli e per me la vicenda è chiusa. In ogni caso, Andrea Marini, pagina 11 del Sole 24 Ore, non accenna a chiudersi il caso Calderoli-Chieng. L'esponente leghista sabato aveva paragonato il ministro dell'integrazione a un orango, ieri è intervenuto il premier Letta facendo appello al segretario Maroni affinché chiuda rapidissimamente questa pagina vergognosa, è il virgolettato delle parole di Letta, se no si entra in una logica di scontro totale, ha citato anche appunto l'Expo. Da qui c'è stato anche Matteo Salvini che ieri ha detto a Napolitano taccia di fatto, cioè io mi indigno con chi si indigna, Napolitano taci che è meglio. Su questo c'è da dire che pagina 2 del Corriere della Sera, Marzio Breda, quirinalista, dunque osservatore di quello che succede sul Colle di Roma, scrive il gelo del Colle che prende atto, ha capito Napolitano qual è la strategia, alzare i decibel per provocare una sequenza di shock conquistando così attenzione altrimenti appannata, e fare tutto questo cinicamente a costo di sfidare con slogan razzisti il senso comune dell'Italia che resta ancora lucida e pensante. E dunque quando Matteo Salvini ha scritto Napolitano non si indignò quando Fornero con voto di PD e PDL rovinò milioni di pensionati e lavoratori, io mi indigno con chi si indigna, un'intimazione considerata molto pesante, spazzatura al Quirinale, alla quale sul Colle si è deciso di non reagire per non entrare in un battibecco infinito di bassissimo livello con deprecazioni e censure che per quanto sacrosante aizzerebbero solo una rincorsa di repliche incarognite. E dunque il gelo un po' del Quirinale su questo. Però Letta ha chiamato Maroni, si sono sentite, avanti così ed è scontro totale, così anche a pagina 2 del Corriere della Sera. A pagina 3 c'è anche il retroscena di questa telefonata, l'ho sentito così Maroni, nessuna ricaduta su Milano. Tra l'altro nel retroscena di Marco Cremonesi sul Corriere della Sera l'esordio è questo, Maroni avrebbe detto ai suoi, una volta sentito al telefono Enrico Letta, anche a un vero democristiano come Letta ogni tanto può capitare di incespicare. Così alla fine della giornata Roberto Maroni, di buon umore, dice considero chiuso sia il caso Calderoli che si è scusato pubblicamente e privatamente, sia la vicenda Expo, forse una scivolata di Letta, cioè avere citato l'Expo secondo Maroni è una scivolata, appunto, anche perché secondo il retroscena di Repubblica sempre siamo su questo tema, Andrea Montanari a pagina 7, addirittura Maroni avrebbe esordito in maniera un po' ironica la telefonata con Letta così: che cos'è, una minaccia? Una ritorsione? Volete forse spostare l'Expo da Milano a Palermo? Cosa c'entrano l'Expo e la Lombardia con Calderoli, che oltretutto si è scusato? Ora basta, questo è un ricatto, peggio di ciò che ha fatto Calderoli, è chiaro che vogliono strumentalizzarci. Così Maroni, poco prima di telefonare appunto con lei, di fare la telefonata a Letta, e la telefonata, secondo Repubblica, avrebbe avuto questo esordio. Cos'è, volete spostare l'Expo da Milano a Palermo? Quasi una battuta. Poi dice Roberto Maroni: vogliono coprire con questa vicenda il caso della dissidente kazaka che è stata restituita con la figlioletta in Kazakistan in modo molto molto opaco. Sta di fatto che il caso tiene ancora banco. Due interviste vi segnalo su questo. Sandy Kane, chi è? Americana di origine, è la prima sindaca leghista nera a Viggiù. Intervistata da Repubblica, Sandro De Riccardis dice: la ministra provoca, cioè ribalta al tavolo, è la ministra Kyenge che aizza gli animi, è arrogante nelle sue affermazioni con questa idea dello ius soli, per esempio. Io in Italia non la voglio, ma ne possiamo parlare con tranquillità, non è che devo essere considerata razzista, è ministro dell'integrazione, ma in realtà provoca le persone. E dunque la leghista di colore, questo è il titolo, nell'intervista di Sandro De Riccardis, è la ministra che provoca. E poi c'è un'altra intervista a Serenella Fucsia, onorevole del Movimento 5 Stelle, animalista convinta che al secolo XIX difende Calderoli, lo difende proprio in quel suo giochino di associare le persone agli animali. La grillina fucsia, il paragone con l'orango ci sta. Così, intervistata da Ilario Lombardo, si stupisce: ma cosa ha detto di così negativo Calderoli? Io proprio non lo capisco. Ma veramente? Ma sì, ha pure chiesto scusa, ho sentito tirare in ballo il femminicidio. Ma non esageriamo, basta, siamo prevenuti, dovremmo considerare il contesto dove lo ha detto. Se qualcuno avesse definito Calderoli un maiale, nessuno gli avrebbe dato del razzista. Siamo prevenuti, Calderoli è il miglior vicepresidente del Senato che ci sia, quando presiede l'aula funziona benissimo, i leghisti sono dei gran lavoratori, e poi tutti assomigliamo a qualche animale. E allora qui si sdogana questo giochino. Davanti a lei passa proprio in quel momento l'ex senatrice Adele Gambaro e Serenella Fucsia dice: ecco, per esempio lei mi ricorda una mucca. Ma come? Aveva preso anche le sue difese, chiede il secolo XIX. Ma infatti a me sta molto simpatica Adele e la stimo come persona, visto? Mi ricorda quell'animale, la mucca. Non lo considero offensivo, questa è la dimostrazione di quello che dicevo. Sì, ma dare della scimmia a una donna di colore non trova che è diverso, ha un'indubbia connotazione razzista da sempre. Ma perché, povero orango? Dice l'onorevole Fucsia. Allora è offensivo anche per l'animale, perché vuol dire che è brutto. Siamo noi che gli diamo una connotazione negativa. Io difendo tutti gli animali senza distinzioni. Anche io faccio il gioco di Calderoli, associo i volti alle fisionomie degli animali. Anche in aula guardo i colleghi e dico: quello assomiglia a un corvo, quello a uno struzzo, quell'altro a un pavone. Io, per esempio, sono convinta di assomigliare a una papera. O il nostro capogruppo Morra mi ricorda un camaleonte. Al che Ilario Lombardo del secolo XIX conclude: ma quindi anche lei pensa che Kyenge assomigli a un orango? Ci potrebbe stare. Questa è la risposta dell'onorevole Serenella Fucsia. Serenella e rasserenante in questa intervista per stemperare gli animi. Beh, come detto, l'altra notizia, che certamente è una notizia più strutturale, più importante sui giornali e che può avere davvero delle ritorsioni e delle ripercussioni sulla politica, è la vicenda kazaka. Allora, i fatti sono noti, abbiamo preso la moglie del maggior oppositore del dittatore del Kazakistan, che era in Italia con la figlia, l'abbiamo presa e li abbiamo messi in un centro di identificazione e espulsione, poi rispediti in Kazakistan. Perché lo abbiamo fatto? Beh, intanto abbiamo mobilitato tutta la polizia e il tema politico è: il ministro Alfano poteva non sapere? Secondo Repubblica, Carlo Bonini, che insiste da giorni su questo tema, l'ultimo fortino del ministro sarebbe questo: pronto a insistere sul non sapevo, pronto a sacrificare i vertici del Viminale scrive Carlo Bonini, per salvare se stesso e sottrarsi alla logica stringente dei fatti che dicono che non poteva non sapere, Angelino Alfano, come ribadivano ieri sera qualificate fonti del Viminale, è pronto a sacrificare un'intera linea di comando, più o meno la spina dorsale del Dipartimento Pubblica Sicurezza, perché nessuno può pensare che in questa storia possa pagare una persona sola. Così il capo di gabinetto Giuseppe Procaccini riguarderà il Red Rationem anche, non solo lui, anche il segretario del Dipartimento Pubblica Sicurezza Alessandro Valeri, il prefetto e già capo della Polizia Pro Tempore Alessandro Marangoni, il capo della Criminal Por Francesco Cirillo, nonché, qualora la relazione del capo della Polizia Pansa prevista per oggi gliene dovesse offrire motivo, anche il questore di Roma Fulvio Della Rocca, il suo capo della squadra mobile Renato Cortese, il capo dell'ufficio immigrazione Maurizio Improta. Queste sono le persone che secondo Repubblica rischiano davvero e sono in bilico. Oggi c'è la redazione del capo della Polizia Pansa. L'idea politica è quella: far quadrato attorno Alfano. Anche il Corriere scrive così a pagina 6, caso Ablyazov, il PDL fa quadrato intorno ad Alfano, il premier Letta dice qualcuno pagherà. La sensazione però, secondo molti giornali, è che in qualche modo possano pagare le persone operative, ma non i politici, anche perché, e qui sono i retroscena, dovessero pagare i partiti politici, in questo caso dovesse pagare il ministro Alfano, la domanda successiva è: ma a questo punto c'è ancora una maggioranza di governo? Secondo il giornale è proprio così, guerra a sinistra per far cadere Letta. Addirittura per il giornale a pagina 3 con Laura Cesaretti, Repubblica da giorni chiede la testa di Alfano, anche ieri con l'editoriale di Ezio Mauro, la strategia è quella di far cadere Alfano. Quindi non c'è più una maggioranza, perché ovviamente il PDL farebbe pesare questa cosa all'interno della compagine di governo, ed è questa la strategia per lanciare Renzi, che si sta scaldando. Anche per il Messaggero, il vertice di fuoco al Viminale, scontro sulle rimozioni, Cristiana Mangani e Sara Menafra, pagina 3 del Messaggero, Pansa prepara la sua relazione, pensa a un avvicendamento tra dirigenti, mentre il titolare di Castero, cioè Alfano, non vuole sconti, vanno individuate precise responsabilità. A proposito di responsabilità, anche per Fiorenza Sarzanini, questa sarà la linea, pagina 7 del Corriere, via tutti i responsabili, la linea dura del vice premier Alfano, che punta così a dimostrare la propria estraneità. Ma la domanda è proprio questa: poteva non sapere? La classica domanda che spesso si applica alla politica. Il Fatto Quotidiano, indovinate chi va a chiederlo? Va a chiederlo a uno che al Ministero dell'Interno è stato, Claudio Scajola, e che tra l'altro ha perso il posto per la famosa frase sul rompicoglioni Marco Biagi. A sua insaputa? No, Alfano non poteva non sapere. Pagina 4 del Fatto, vanno a chiederlo proprio all'uomo che ha sdoganato l'insaputismo in Italia. E infatti Scajola esordisce così nell'intervista di Carlo Tecce: mi dica, cosa butta di nuovo? Io sono l'uomo a sua insaputa, sono ancora di moda? E poi da qui parte la chiacchierata. Che devo rispondere? La questione kazaka è complicata. Io conosco il Viminale. Quante stanze separano l'ufficio del ministro a quello del capo gabinetto? Non più di 3. Pochi metri, pochi passi. La formulazione è: come fa un ministro a non essere informato? Dice Scajola. Io, per esempio, ricevevo il capo di gabinetto ogni mattina entro le 8, leggevo la posta privata, fissavo l'agenda, lui mi aggiornava sui fatti accaduti di notte e non lasciavo mai il ministero a tarda sera se non avevo l'ultimo colloquio che faceva il punto conclusivo. Procaccini era il vice del mio capo gabinetto, non avevo rapporti diretti con lui, ma al Viminale conoscono la gerarchia e la fanno rispettare. La gerarchia, ripeto, la gerarchia è fondamentale, risponde Scajola. E alla domanda di Tecce, scusi, allora o Alfano sapeva e ha agito male, oppure non sapeva e non controlla il ministero? La risposta di Scajola è: concordo, non ci sono spiegazioni alternative. Insomma, una bella intervista pepata e avvelenata dall'ex titolare del Viminale per il suo collega di partito Alfano. Anche sulla Stampa questo tema, l'ultimatum di Epifani a pagina 3, chiarezza o il PD si sfila. Vedete che la tenuta di governo su questo tema è davvero a rischio. Il segretario chiama Letta, annuncia la svolta: siamo indisponibili a immolarci sul Viminale, non ci possono essere ombre, serve trasparenza. Pare che Epifani proprio abbia detto a Letta: non siamo più disposti a immolarci a tutti i costi, ci vuole chiarezza. Insomma, non possiamo capire, non possiamo vedere che in nome di una difesa strenua di governo si possa rischiare di non fare chiarezza su un tema così. E quindi la domanda è: resisterà Alfano, passerà questa linea del non sapevo e quindi terrà il governo? Si verrebbe da dire governo, so cazzacchi vostri, il traffico. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. E vabbè, su questa vicenda Libero e Il Giornale puntano anche sui magistrati, dicendo la manina dei magistrati nell'atto di espulsione. A parte che Libero con Maurizio Belpietro fa un articolo dicendo: guardate che è tutto regolare, cioè l'espulsione è una, il caso kazako è una montatura, vi spiego perché. La persona era irregolare, quindi è stata espulsa. Poi, scrive Belpietro, è chiaro che da qui si sta montando un caso per terremotare il governo. Comunque Rita Cavallaro anche su Libero scrive, e anche Il Giornale: ci sono anche i magistrati, tutti a prendersi con la polizia, ma sono i magistrati anche che hanno messo la firma sull'espulsione. In tutto questo capite perché ci sono le, lo dico, fibrillazioni di governo, termine orrido, ma non, perché capite perché ci sono queste fibrillazioni? Perché ogni giorno con questa situazione ci si mette anche Matteo Renzi, no? Matteo Renzi ieri era a una festa del PD a Carpi e ogni giorno fa il suo piccolo affondo. Ieri poi il portavoce Marco Agnoletti ha smentito dicendo: non ha detto che il governo non dura, però l'abbiamo sentito anche nelle 6.30. Ha detto l'accordo, non credo che questo accordo col PDL possa andare avanti molto. Voglio bene a Letta, sono italiano e quindi se abbiamo un governo sono contento, ma ogni giorno Letta deve parlare con Brunetta e Schifani. Tra l'altro questa è una cosa che ripete ossessivamente, no? Perché va avanti un po' per slogan e questo gli piace molto in questo momento. Letta deve parlare ogni giorno con Brunetta e Schifani. E quindi i giornali la traducono così. Emilia Patta sul Sole 24 Ore: il nuovo affondo di Renzi, l'accordo col PDL non durerà. Questo è il titolo. Oppure pagina 10 del Corriere della Sera: il governo Renzi attacca ancora, così la maggioranza non dura. Non l'ha messa proprio brutalmente così, ma il senso era questo. E tra l'altro racconta il Corriere della Sera con Tommaso Labate a pagina 10 che il gelo tra il premier e il sindaco, quindi tra Letta e Renzi, sull'incontro tra quest'ultimo e Angela Merkel non si è ancora sciolto, perché Renzi è andato da Angela Merkel, poi ha detto sapeva tutto Letta, Letta ha detto non sono stato informato, vabbè. Per Repubblica col PDL non durerà, ma tifo Letta, Renzi fa il pieno nel tour in Emilia, l'altolà viene dai bersaniani, ancora ieri non vanno bene le docce scozzesi sul governo. Poi sono sulle cose pratiche che succederà, che si rischia uno scontro, per esempio sul finanziamento ai partiti, oggi entro le 12 quella legge che deve modificare, rivoluzionare il finanziamento ai partiti, segnatevi questo orario, entro oggi alle 12 vengono presentati, termine ultimo per presentare gli emendamenti al disegno di legge del governo per l'abolizione dei rimborsi elettorali, lì si saprà chi vuole o chi non vuole. E nel PD cosa succede? I renziani pare che siano sono favorevoli sicuramente a questa legge, vogliono l'abolizione, mentre invece i bersaniani o comunque l'ala più tradizionalista del PD no. E bisognerà capire cosa succederà. Come bisognerà capire sulla spending review che succederà? Arriva il commissario nuovo, non fatevi troppe domande. Sì, lo so, state pensando che c'era già un commissario per la spending review che era Bondi, ma è un governo passato, sebbene appena di un anno fa. Adesso ci vuole un commissario nuovo, non fatevi troppe domande, è così, non fatevi troppe domande su queste cose, è così, ci vuole un commissario nuovo per la spending review, che vuol dire più prosaicamente tagliare la spesa pubblica, 800 miliardi di euro l'anno, vedere dove tagliare. Allora il Corriere fa sapere che è imminente la decisione del governo, nella rosa ci sono due nomi che spiccano su tutti: I tre più gettonati: Carlo Padoan, capo economista dell'OCSE, e Lucrezia Reichlin, in passato la Banca Centrale Europea. Questi sarebbero i due nomi più gettonati come prossimo commissario della Spending Review. Ci sono ancora polemiche sulla vicenda Ilva, dopo che una relazione firmata da quattro professori e fornita alla Regione Puglia, per la verità, 15 giorni fa, era stata tradotta dai giornali con questo titolo: Bondi, che adesso è commissario dell'Ilva, troppi tumori all'Ilva sono legati al fatto che si fumava tanto all'epoca a Taranto. In realtà Bondi ieri ha smentito, dice: sono solo relazioni e pareri molto complicati e tecnici firmati da alcuni epidemiologi. Uno di questi epidemiologi è stato intervistato dalla Stampa, a pagina 17, da Maria Corbi. Dice: non capisco questa polemica, questo rumore su appunti tecnici, lo studio è complicato, cose molto tecniche. Capisco che in questa vicenda gli aspetti tecnici sono sovrastati da quelli politici. E l'intervista a Carlo Lavecchia, uno degli esperti epidemiologi che ha firmato questa relazione. Comunque, tanto trovate sui giornali, come trovate del momento l'articolo più inutile scovato, a mio insindacabile giudizio ovviamente, ed è il premio La Carta Costa. Oggi siamo sulla Stampa con Lorenza Castagneri, credo sia la seconda volta che viene segnalata, ma non me ne voglia, d'altronde si sa che anche il microfono costa. E Lorenza Castagneri fa un'intera pagina, un'estate al gusto rosa shocking, perfino la grafica della Stampa è tutta in rosa, è tutta in rosa, think pink, sinonimo di fashion. Il rosa, scrive Lorenza Castagneri, che è un simbolo femminile per le bambine in pastello. Crescendo però poi le donne osano di più. Tutto fluo, tutto rosa shocking. È un qualcosa che è assolutamente imperdibile per questa estate. Un'estate al gusto rosa shocking. Un'intera pagina, una intera. Dalla prima all'ultima riga, pagina 23 della Stampa, col solito appellativo e il solito premio e il solito invito. La carta costa e anche tanto. È tempo di giornale radio. Ci ritroviamo subito dopo. Ascoltate Alino Milan, l'unico giornalista che legge il presente, ricorda il passato, predice il futuro.